Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. A volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Mais enfin voyons, c'est absurde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Oh, vas-tu! Natale è una festa statica, perché è sempre uguale, ogni anno. Quando uno si ribella alla liturgia del Natale, perlomeno agli usi familiari, a quelli che determinano oggi il tempo di chi mi sta ascoltando, in attesa dell'arrivo della notte di Natale, con sentimenti per qualcuno ispirati da un sentimento, una tradizione, una profondità religiosa, altri semplicemente da una tradizione familiare, che è altrettanto forte, altrettanto potente, altrettanto degna di considerazione. Chi non ha tutto questo cosa fa? Fa ribelle, fa l'eccentrico, fa quello schifato del Natale, fa quello per cui il Natale insomma è tutta una cavolata di tipo consumistico, fa il misantropo, fa l'isolato, fa quello che non vuole regali e non fa regali, fa l'antinatalizio per eccellenza, che è una figura ormai sciatta dalla reiterazione che è stata fatta in tutte le persone che si ribellano al Natale. Io non sono un ribelle del Natale, io sono un entusiasta del Natale. Sono una persona che fugge dal Natale statico. Io mi metto in treno perché il mio Natale è in movimento. Voglio fare un Natale passando, un Natale correndo, un Natale scorrendo lungo le rotaie, andando da un punto a un altro punto, ma non sapendo bene se il mio punto di partenza poi non coincide anche con il punto di arrivo. Ho scelto il più reale e allo stesso tempo il più consueto, il più trito, il più percorso dei luoghi dell'immaginario. Il treno che parte da Parigi e arriva a Costantinopoli. L'Oriente Espresso, un mito, qualcosa che non esiste più se non altro in una ricostruzione posticcia, fighetta, per persone che vogliono il brivido di qualcosa che ha un senso lontano, antico, di gusto perduto, ma in realtà è qualcosa come un parco a tema andare oggi con l'Oriente Espresso. Il mio infatti è un treno antico, un treno che non esiste più, è un treno che parte da Parigi, che era il centro del mondo, il centro della cultura, il centro della tecnologia, il centro dell'evoluzione dell'umanità verso dei destini stupendi, splendidi, e andava verso Costantinopoli, che era i confini più estremi del mondo più inconoscibile, o perlomeno i confini conoscibili del mondo che aveva curiosità e ispirava e in qualche maniera conformava tutto ciò che era materia informale del sogno. E questo sogno in treno oggi voglio farlo assieme alle persone che incontro, come sempre faccio tutte le domeniche mattine in un treno, una persona alla ricerca di dialogo, di contatto, di chiacchiera, di estirpare confidenze a persone che stanno in treno. E chi sta in treno la notte di Natale? Voi direte, ci sta soltanto un disperato, uno che non ha famiglia, non ha affetti, non ha amicizie. No, ci sta qualcuno, vuol dare un senso diverso alla staticità consueta del Natale di tutti. Rappelez-les, messieurs les voyageurs, de ce train de service de réservation de sièges attribués. Io parto da Parigi. I nonni di solito andavano verso Parigi, perché era la città della trasgressione, del peccato, la città del ballo, dei pizzi, dei lustrini, delle giarrettiere, della perdizione, del profumo, delle cocotte. l'antitesi rispetto alle scucchione mogli che avevano per casa, rispetto alla consuetudine coniugale, rispetto alla tradizione, rispetto ai musi baffuti che ti guardano, ti scrutano e ti giudicano. Io invece da Parigi me ne vado, perché oggi Parigi è una città di transumanza, è una città da cui la gente se ne va. E invece, per paradosso, ho incontrato una ragazza che è reduce da un ritorno a Parigi, una ragazza che è stata lambita da ciò che più ha segnato Parigi negli ultimi mesi, una ragazza che soltanto per un istante, per un pelo del destino, non è esplosa, non è stata bersaglio di Kalashnikov e dei terroristi, una ragazza che non paga di aver sfiorato la morte soltanto per pochi minuti in uno di quei ristoranti che sono stati bagnati di sangue, ci è tornata. C'è tornata proprio per la vigilia di Natale e adesso ne sta tornando verso casa sua. È come se volesse interrogare una seconda volta il destino che ha voluto scampare. Fatalmente si è trovata nel momento storico proprio a Parigi, proprio nel posto in cui stava per accadere tutto. Sì, è vero, esattamente. Ero a 300 metri da dove si è verificato quello scenario terribile delle sparatorie di novembre a Parigi, quindi è stata un'esperienza che in realtà ho vissuto indirettamente, perché il ristorante in cui ho cenato non era per fortuna uno di quelli, però il giro l'ho fatto tutto nei posti in cui poi sono avvenute le sparatorie, e il percorso è stato quasi un'ora prima esattamente lo stesso. Quindi fatalmente potevi entrare proprio nel ristorante dove c'è stato la strage. Tant'è che addirittura facendo proprio la classica passeggiata prima di cena in cerca del ristorante, perché volevamo cenare, volevamo mangiare cucina asiatica, cucina orientale, quindi abbiamo visto il cambogiano, quel ristorante in cui è avvenuta una delle sparatorie, abbiamo letto il menù, abbiamo guardato all'interno per vedere com'era, era carino, se c'era gente, poi abbiamo detto ma no, andiamo avanti. Questo quanto tempo prima che accadesse? Considera che siamo usciti dal nostro appartamento, perché noi eravamo in un appartamentino proprio sul canal San Martin, e alle 8:30 siamo usciti, abbiamo cominciato a fare un giro, volevamo fare una bella passeggiata lunga perché non avevamo fame, quindi ho pensato magari andiamo a cena anche alle 10, passeggiamo un po', e quindi facendo esattamente il giro che poi è stato quello delle sparatorie, quindi il ristorante cambogiano l'abbiamo guardato ma l'abbiamo scartato perché era uno dei primi, abbiamo detto guardiamone altri. Siamo passati davanti al Carillon, che mi aveva colpito, cioè questa insegna così grande, così bella, avevo detto ma guarda anche questo com'è particolare, e davanti c'era il ristorante italiano Casa Nostra, abbiamo pure ironizzato, vedi, ristorante italiano Cosa Nostra invece che Casa Nostra, e siamo arrivati fino a Belleville, tra l'altro riflettendo anche su quante persone comunque in giro c'erano, si vedeva insomma che era una popolazione prevalentemente araba, quindi comunque anche riflettendo, parlando insomma delle problematiche di integrazione, e quindi abbiamo fatto un giro molto lungo, poi a un certo punto abbiamo anche sbagliato strada, quindi il giro si è allungato e si è allontanato un pochino dai ristoranti, però per poi rientrarci da una delle stradine laterali, e quando abbiamo deciso poi per un posto che invece era vicino al nostro appartamento, ormai considera che erano quasi le 9, quindi eravamo veramente a poco tempo dal momento in cui sono avvenuti i fatti. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Accueillir à bord. Vous pouvez communiquer avec Gianluca Nicoletti. Courriel à iltrenova@radio24.it. Ecco, da cosa ti sei accorta che stanno sparando presente a qualche, ma nemmeno a 100 metri dove stavi tu? La cosa incredibile è che noi in realtà siamo arrivati nel ristorante in cui abbiamo mangiato, nel ristorante indiano, abbiamo chiesto, c'era un tavolo, ci hanno fatto aspettare un pochino, ci siamo bevuti intanto un bicchiere di vino, e in realtà noi ci siamo accomodati in una saletta interna, quindi non abbiamo lì per lì avuto la percezione della sparatoria, se non poi quando a un certo punto verso, ma ti dico anche quasi la fine della serata, è arrivata intanto una telefonata di mia madre terrorizzata, perché ovviamente non aveva notizie di noi e sapeva che io ero in quel quartiere, e chiedendomi se andava tutto bene, E la cosa incredibile è che nel nostro ristorante le persone che erano intorno non davano l'idea di persone spaventate o che comunque avessero avuto notizia di qualcosa, perché noi nel ristorante in realtà non abbiamo sentito nulla. Quando poi abbiamo detto andiamocene a casa, perché visto che insomma è successo veramente una tragedia, siamo usciti e abbiamo visto invece per strada persone che correvano disorientate, che si guardavano intorno, e in realtà tutti ci guardavamo proprio per, come per cercare ognuno una risposta negli occhi dell'altro, e macchine poi della polizia che sprecciavano. Insomma, poi all'uscita dal ristorante invece poi ci siamo resi conto che ci eravamo trovati veramente ad un soffio da una tragedia, quindi è stato insomma abbastanza impressionante, soprattutto dopo poi vedere i telegiornali fino a tarda notte, perché poi noi siamo tornati di corsa nell'appartamento, quindi fino almeno alle 3 di notte siamo stati in piedi a vedere tutto quello che era successo, e a volte veramente per un soffio puoi finire in mezzo a qualcosa di terribile. Non so davvero chi ringraziare. Hai mai analizzato poi nelle settimane che sono seguite quali sono stati gli elementi che potenzialmente potrebbe averti salvato la vita? Non so, uno entra in un ristorante, c'è un odore che non gli piace, vede una cosa che non gli piace, e le circostanze minime per cui uno segue una strada invece che un'altra. E quella è stata proprio la cosa su cui io continuo tutt'oggi a riflettere. A volte una combinazione di elementi, magari non mi era piaciuto per esempio uno dei ristoranti perché era troppo scuro, troppo buio dentro, perché c'era troppa gente, perché non mi piaceva magari la cosa banale, che ne so, il decoro delle tovaglie erano decorate, non mi piaceva. Quindi anche dei motivi banalissimi che però poi si rivelano vitali, perché poi è proprio per quelle sciocchezze che magari non ti sei fermata in quel punto. Il ristorante in cui abbiamo mangiato ci era piaciuto perché era vicino casa, noi eravamo un po' stanchi, era molto carino, aveva una bella illuminazione, era molto accogliente, quindi poi uno in effetti va a interpretare questi segni, quindi pensare forse era destino oppure casualità. Questo veramente rimane un interrogativo che mi coltivo comunque a fare ogni giorno, perché è veramente strano in effetti. C'è chi questa notte inizierà a seguire una stella cometa. Io seguo soltanto il fischietto di un capostazione e la lanterna che si accende per dare il segnale di avvio e di partenza del treno di stazione in stazione. Osservo più quello che mi lascio alle spalle rispetto a quello a cui vado incontro, anche perché non sono sicuro di arrivare, non ho nemmeno voglia di arrivare in un posto preciso. Accanto a me c'è una ragazza molto giovane, una ragazza italiana, ma per qualche ragione anche lei passava il suo tempo in quella città di cui oggi abbiamo parlato soltanto con senso di angoscia e senso di smarrimento. Più o meno anche lei segue lo stesso percorso di fuga. La sua è una fuga momentanea, una fuga a tempo determinato. Lei decide che in fondo, quando proprio non può più farne a meno, quando finisce il suo impegno professionale, allo scoccare della campanella dell'orario di lavoro, prende il treno e se ne va. Non so dove vada, non mi interessa capire in che stazione vada, mi interessa pensare che anche lei ha scelto la notte di Natale di seguire questa sua tradizione della fuga del fine settimana per non lasciarsi assolutamente coinvolgere da quello un senso diffuso di angoscia. Ogni tanto nelle notti di sabato sera, dopo il mio lavoro, mi dirigo verso la stazione di Montparnasse, prendo il primo treno e scappo per qualche giorno da Parigi. Seduta nel mio posto, chiudo gli occhi e respiro. Mi sento libera. Dopo un po' di minuti e qualche fermata, nel vagone cala il silenzio e so con certezza che il treno sta ormai sfrecciando fuori da Parigi. Le luci sono soffuse, il paesaggio cambia e la natura circonda le rotaie. Così appoggio la testa al finestrino e guardo in alto. Vedo il cielo, le stelle, la luna. Quanto mi sono mancate? Quante volte mi è capitato di sentirmi in crisi? Ma poi sento una musica provenire da fuori. Un gruppo di amici mi piomba in casa e cucina per me, con quel poco che trova, ovviamente. Bien sûr, non è facile intuire perché ogni tanto ci si vuole allontanare da questa città, che ti fa sentire orgogliosa di vivere, anche quando accade qualcosa di brutto. E così salgo sul treno e mi allontano per un po'. Poi accade un fatto strano. Quando sono di ritorno, mi ritrovo a provare gioia. Mi sento libera e sollevata, proprio come quando partivo. E così dico al mio treno. Allez, mon chéri, Paris matin, sbrigati, voglio tornare lì. E mi accorgo che in un certo senso lasciare Parigi è possibile solo se puoi tornarci. Ma che fa l'air assez constant, professeur? Comment voulez-vous que je ne le sois pas? Mais que fait votre amie, elle qui est toujours tellement exacte? La piccola donna scura affonda nel suo sedile. Ha preso due biglietti. Accanto a lei c'è un sedile vuoto. Pretende che nessuno si sieda nel sedile vuoto. Nella cappelliera porta uno scatolone legato con lo spago. Conteneva detersivi, probabilmente in origine. Oggi penso che contenga generi alimentari, quei doni che si portano nelle transumanze natalizie di casa in casa. Fuoriesce la piombatura di un salame artigianale. Si sente nell'aria quell'odore leggiadro di pecorino stagionato che mi indica immediatamente l'origine di questa donna. Ha molto da raccontare e poca voglia di raccontarlo. È la situazione più difficile, quella più penosa. Devo estorcere una confidenza, devo estorcere un racconto di vita, se no che viaggio a fare? Non ha senso il mio viaggiare se il mio viaggiare non è raccontato a tempo reale. E quindi insisto e qualcosa alla fine ottengo, ma parla sempre poco, è molto parca e soprattutto sembra che non abbia nulla di importante da raccontare, e invece ha una cosa importantissima. Comunque il treno è una bella cosa. È un bel modo di viaggiare. Viaggiando soli soprattutto, dico la sincera verità. Sì, a me piace moltissimo. Ti piace viaggiare sola? Mi piace viaggiare in treno. Sola, in compagnia non fa differenza, ma se devo scegliere un mezzo di trasporto mi piace il treno. Mi dà il tempo di pensare. Senti, mi sembra di aver capito che ti fai portavoce di qualcosa di piuttosto singolare. Normalmente sono gli uomini separati che inveiscono, dicono che sono le vittime, vanno a dormire sotto i ponti, le donne l'hanno rovinati, c'è una sorta di accondiscendenza generale nei magistrati nel dar sempre ragione alle donne, alle madri, via dicendo. Tu porti un'esperienza contraria, mi sembra. Sì, abbastanza contraria, ma non è che voglio inveire, voglio solo raccontare la mia storia, che possa essere d'aiuto a qualcun altro, magari, non so, qualcuno ci ascolterà. Ma nasce bene la storia? La storia nasce benissimo, da un'adolescenza felice di entrambi, di due giovani ragazzi col futuro davanti roseo, meraviglioso. Quindi vi conoscete da bambini praticamente? Vi conoscevate? Sì, non proprio da bambini, da adolescenti. Quindi nasce sui banchi di scuola e va avanti? Quasi, possiamo dire così, anche se non erano banchi di scuola, però sì, ci siamo incontrati in vacanza e da lì siamo andati avanti per tanto, anche se le prime frequentazioni sono state un po' così, ci vediamo oggi, domani, forse sì, forse no, durante le vacanze estive. Vabbè, prima si è amici, poi ci si mette insieme, che non vuol dire niente. Esatto. E poi insieme comincia a diventare una cosa esclusiva. Sì. Quanto tempo ci avete messo a decidere di sposarvi poi? 7 anni. Sette anni, vabbè, nella media, dai, per essere sì, collaudato un matrimonio. Noi avevamo fretta, cioè nel senso che niente ci costringeva a... stavamo bene a casa dei genitori entrambi, non è che... abbiamo aspettato i tempi giusti, quelli della maturazione di entrambi, perché comunque non eravamo due ragazzini quando ci siamo sposati, neanche troppo adulti, però neanche troppo giovani. E poi vi siete sposati, quanto è durato il matrimonio? 12 anni, quindi 9 anni più 3 anni per le pratiche di dissoluzione. No, le pratiche di dissoluzione sono state quasi immediate, non ci sono voluti 9 anni. Eravate molto d'accordo? Sì, nel senso che io ho rinunciato a tutto per avere la possibilità di essere l'unico genitore per mio figlio. Sì, ma allora scusami, nel percepibile dolore di una storia che finisce, ma sì, la vedo abbastanza tranquilla, grande amore, una vita assieme, l'amore finisce e ci si lascia amici come prima, non è così? E sai qual è il punto? È che l'amore non è finito. Ah, tu lo ami ancora? No, lui mi ama ancora. Ah, lui ti ama ancora? Sì, e allora perché vi siete lasciati? Perché lui non è più lui. Vabbè, è impazzito, cos'è successo? Vous souvenez-vous aux passagers de ne pas laisser vos bagages sans surveillance pendant le voyage? No, lui mi ha detto quando è arrivato all'apice insieme a me, ha praticamente avuto una famiglia, un figlio meraviglioso, bellissimo, cresciuto nell'amore più assoluto. Quindi tutto fino a quel momento, tutto tranquillo? Tutto meraviglioso, non tranquillo, meraviglioso. Nessuna nube che andava a oscurare, sotto si litiga, ci si guarda, ammazza, invece niente. Molte persone me l'hanno detto dopo, io prima non, francamente non ci avevo fatto caso, ci invidiavano perché non ci hanno mai sentito litigare. Beh, io mica tanto, io nell'esperienza che ho, più si litiga e più ci si vuol bene. Le persone che restano assieme sono quelle che litigano, quelle che non litigano mai, c'è sempre dopo ci ho pensato anche qualcosa di non detto. Si è litigato un po' di più. Perché uno litiga, si sfoga e poi se è una persona intelligente il litigio passa come un mal di testa. A meno che non ci sono percosse o cose molto gravi, le parole, le parole rientrano. Un'affinità quasi, a questo punto mi rendo conto, fasulla. Un'affinità fasulla, forse più due amiche che un marito e una moglie. Perché due amiche? Si comportava come un'amica con te? Avete fatto un figlio, i figli non si fanno con le amiche, cioè, o meno, si fanno ma ci vuole un po' di ingegno. No, assolutamente, io non sono una che fa figli con le amiche, ecco, mettiamola così. No, vabbè. Assolutamente. Io, tant'è vero, questo gliel'ho detto, perché lui un giorno dal rientro dalle vacanze, mio figlio aveva 6 anni, mi ha detto, senti, io non posso più sostenere questa situazione, voglio cambiare vita. Come vuoi cambiare vita? Sì, io ho una cosa, e mi ha confessato una serie di cose che lui pensava da quando era bambino. Tipo? Tipo che avrebbe voluto essere una femminuccia, che pregava Gesù tutti i giorni perché la mattina lo facesse svegliare senza il pisellino, cosette di questo genere. Vabbè, diciamo che aveva una interiore percezione del suo genere che è diversa da quella che era l'aspetto esteriore. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Accueillir à bord. Vous pouvez communiquer avec Gianluca Nicoletti. Courriel à iltrenova@radio24.it. Questa cosa l'ha sempre repressa lui negli anni. A quanto pare sì, me l'ha detto dopo, perché quando io gli ho detto, ma scusa un attimo, se tu avevi queste pulsioni, perché non me l'hai detto? Ti sembra facile, sì. Ma noi eravamo qualcosa di più di una coppia, veramente due amici. Io l'ho sostenuto in mille battaglie, lui ha sostenuto me in altrettanto. Ma cara, ci sono delle cose talmente profonde che sono difficili da ammettere a se stessi, figurati dirle a un altro. Credimi, non è facile, penso, immagino. Poi adesso non so il contesto, la famiglia, la società in cui vivevate, ma non è una cosa facile dire mi sento una donna se sono un uomo. Ma l'ho pensato anch'io. Tant'è vero che io sono rimasta al suo fianco per altri 2 anni nel tentativo, pensando di che gli passasse, ad affrontare tutta la transizione, perché ha per cambiato proprio sesso? Sì, certo. Adesso è una donna praticamente, esteriormente. Da diversi anni. Vi vedete ancora? Diciamo che abbiamo rapporti, non abbiamo mai litigato neanche dopo, abbiamo rapporti molto civili. Ma tu l'hai visto nella fase femminile? Sì, certo. Che impressione ti fa? Per me è un tradimento questo, il mio. Vabbè, tradimento, ti rendi conto che per lui è una cosa profonda e grave, un po' difficile, sì. Non è che l'ha fatto apposta, evidentemente non ne poteva più fare a meno. No. Io non l'ho mai imputato questo a lui, io gli ho semplicemente detto, perché quando gli ho chiesto perché hai aspettato tutto questo tempo, lui non ha dato una risposta di non ero consapevole, non lo sapevo, mi ha detto ho voluto provare una vita da uomo ma mi sono reso conto che non era la mia, e lì io mi sono arrabbiata. Ma guarda, la letteratura in questo campo dice esattamente questo, molte persone combattono tutta la vita, ci provano pensando che magari semplicemente un'ombra che può passare. Ma con te come sei comportato negli anni di matrimonio? Avevi avuto mai dubbi di questa sua natura? No, assolutamente. Quindi come vedi era proprio profonda, non è che aveva atteggiamenti che facevano immaginare, ma quello guarda, tuttora è più di là che di qua, come si dice. Qualunque cosa meno che una donna, tuttora, perché il suo fisico non è quello di una donna, per quanto abbia fatto mille operazioni, si stia rovinando, perché adesso anche dei problemi fisici, di natura, di salute. Ma proprio sei proprio tagliato tutto? Completamente. Sai, non è una cosa, cioè non è uno scherzetto, No, però ci sono diciamo dei fisici, questa è letteratura per la quale io mi sono anche informata, perché comunque ti ripeto. Ma lui evidentemente non è femminile, ormonalmente non riesce a diventare donna, certo. Ho dovuto dare il mio consenso al giudice perché mi facesse questo, altrimenti non gliel'avrebbero lasciato fare. Io, moglie, nonostante fossi separata, sono dovuta andare con lui davanti a un giudice. Ho fatto molto per lui. Ma ti sembra che lui sia felice adesso? No, assolutamente. Anche perché non si torna più indietro. Lo so. Poteva aspettare un attimo a fare il taglio totale, almeno vedere com'era un po' la via di mezzo, no? Non lo so. No, io gliel'ho chiesto, gli ho detto, ma scusa, ma... Aspetta, no? Vestiti da donna, va un po' in giro così, vedi? Non lo so, io non voglio entrare in campi che non conosco. L'ho fatto tutto, i passaggi li ha fatti tutti. Continuava a non sentirsi soddisfatto perché sentirsi accettato dagli altri, però io ho sempre cercato di dirgli, guarda che non sono gli altri che ti devono accettare, sei tu per primo che devi accettare te stesso, poi non ti deve importare di cosa sembri. Ma guarda che una cosa, io non, cosa sei. Non credo che si possa entrare in questo campo senza strumenti molto molto raffinati, anche di conoscenza, perché provo a immaginare un atto nella sua testa, è come se tu ti trovassi, che ne so, una sorta di appendice in testa brutta che vuoi toglierti, che ti dà fastidio, che non vedi l'ora di levartela perché senti che per te è qualcosa che non ti appartiene. Immagino che sia questo lui, non so, io la domanda che mi pongo la pongo anche a te, e sarà politicamente scorrettissimo: se non esistesse una tecnologia che riesce a fare questo tipo di operazione, quindi che tu sai che se vuoi puoi farlo, queste persone come vivrebbero? Avrebbero una maniera di accettarlo meglio? Non so, ti sei fatta questa domanda? Se non ci fosse il chirurgo bravo a farlo. Guarda, io me la sono fatta. Il mio problema è che io non conosco altre persone che abbiano personalmente, dico proprio da averci parlato intimamente, per sapere come stanno oggi. Io so come sta lui oggi. D'altronde ha fatto una sua scelta libera da adulto, quindi non si può dire nulla. Questa è la cosa che vuole fare. Non credo che sia stata una scelta libera, è questo il punto. E perché non credi? Chi la può aver istigata? Io conosco i suoi trascorsi, conosco la sua infanzia, la conosco molto bene, conosco la sua famiglia. E quindi cosa può esserci stato dietro? Io credo che non, nel suo caso, in tutti gli altri non saprei, ma nel suo caso io credo che la sua sia stata una serie di piccoli traumi familiari, micro traumi familiari che ti portano a scegliere di essere davvero diverso da quello che sei, per riuscire ad attirare l'attenzione dei tuoi genitori. Ma sono ancora vivi i genitori? Sì, sì. E cosa dicono di questo? Lo tengono a distanza, come tengono a distanza anche l'altro figlio, naturalmente. L'altro figlio che colpa ha? L'altro figlio ha un altro tipo di problema. No, sono problemi suoi, adesso in questo momento non ci interessa. Comunque, quindi tu adduci ai genitori anche una scelta così drastica? Beh, sai, ci sono ragazze che smettono di mangiare e fanno molto male a se stesse. Gli abbiamo chiesto, perché alla fine ho detto: senti, prima di fare una scelta così difficile, cerca di vagliargli tutti gli orizzonti. Io ci vengo con te dallo psicologo e affrontiamo la situazione, ma penso che sia giusto che vengano anche i tuoi, quantomeno per capire da dove nasce, visto che lui parla dell'infanzia, ma la sua infanzia mica l'ha trascorsa con i genitori, l'ha trascorsa con i nonni, è rientrato in famiglia che aveva un'età già diversa. Quindi c'è una negata accettazione, non è mai stato all'altezza, non si è mai sentito all'altezza. Quindi ancora vi sentite, vi scrivete, cosa fate? Noi abbiamo un figlio in comune. Questo ragazzo, diciamo, quanti anni ha? Adesso è un adolescente. Quindi, come ha preso lui questa storia? Quando era molto... Guarda, ti dico solo una frase che gli ha detto lui il giorno che il mio ex marito gliel'ha detto, senza che io fossi presente, ha agito alle mie spalle, perché ero convinta che non fosse pronto, perché avevo parlato con la psicologa, dovevamo affrontarlo in un certo modo. Mio figlio aveva 10 anni, lo ha guardato e gli ha detto: papà, perché per lui continua a essere papà. Come fa a chiamarlo mamma? No, neanche zio, lo chiama papà. E ha detto: papà, ma se Dio ti ha fatto male, tu perché non sei contento di esserlo? Beh, Dio non è obbligatorio per tutti pensare che ci fa un Dio, Sì, 10 anni, poverino, capisco, nella sua mente, ma... La mente era quella, però gli ha detto: se tu vuoi fare così, per me va bene. Che cosa doveva dire? Ma niente, l'ha accettato. Esatto. Il suo marito cosa fa adesso? Cioè, il suo ex marito cosa fa adesso? Sta fuori, non sta in Italia. Ah, non sta in Italia. Però lavora, sì, ha una sua vita. Lavora, è andato in un paese dove questa cosa, diciamo, desta meno scalpore. Sì, esatto, sì. Però dice: lei si vede che è un uomo, è inutile che si prenda in giro. Questa... Sì, purtroppo per lui, ed è questo il suo crucio. Sì, perché magari si viene bene, magari uno può vivere la sua identità bene, ma... Esatto, il suo crucio più grande. Ha sempre gli occhi addosso, perché è un uomo che si veste la donna, alla fine, gira come vuoi. E non essendo sicuro di sé, non essendo riuscito... Secondo me è questo il suo problema. Io dico sempre: tu devi vivere prima sereno con te stesso, poi puoi sperare di trasmettere agli altri la stessa. Certo, adesso è una situazione un po' difficile, perché se non è contento nemmeno adesso, non so cosa possa fare. È proprio questo il punto. Ma le ha raccontato che non è contento? Sì. Ecco, se lui potesse scegliere, cosa vorrebbe? Tornare a vivere con lei? Cosa vorrebbe fare? No, non credo. Ma lui adesso ha un compagno, una compagna, qualcosa? No. Vive solo? Sì. Vous souvenez-vous aux passagers, pas strictement interdit d'utiliser la tunnel promiscuité. Quindi non è manco una scelta d'amore, dice: mi ha lasciato per un altro, mi ha lasciato. Lui continua a ripetermi che sono l'unica persona, non uomo o donna, lui mi definisce persona. Beh, è chiaro che con lei è una storia d'amore. Mai amato in vita sua, questo. Sì, io penso che questa cosa vada oltre il genere, diciamo. Sì, certo. tanto più che mi sembra abbastanza disinteressato poi alla fine lui al fatto se è uomo o donna. Quando uno naviga in acque così poco chiare non è che a lui interessi molto se lei sia uomo o donna, è una persona, questo è un dato quasi positivo, diciamo, che la consideri una persona. Certo, per lei è un cucciolo a cui dovrà prima o poi liberarsi, perché come fa a vivere per una cosa che ormai non sarà mai più quella di prima, perché in maniera concreta non potrà... Non la vivo più con nessun tipo di... È per me una gran pena per lui, perché comunque ci sono dei momenti in cui l'ho odiato a morte perché mi ha lasciata in brutte acque, bruttissime acque, che ho dovuto affrontare da sola. Problemi tipo pratico, economico, queste cose. Tipo pratico, economico, che da tutti gli altri punti di vista, perché lui da qui è andato via. Io sto in un piccolo paese, quindi puoi immaginare che cos'è stato essere la moglie del mostro. La moglie di quello che è diventato donna. Il mostro, perché qui è il mostro. Ho chiamato il mostro? Beh, no, per modo di dire. Lo sguardo è quello. Ognuno c'ha il suo scheletro in armadio, non è che saranno tutti virginelle adesso nel paese. Sì, centri, però è facile. Sì, sì. Un uomo che picchia la moglie. È normale. Esatto. Ma è una storia molto dolorosa questa, io non ci vedo aspetti morbosi dietro, ci vedo una grande angoscia, perché per lui a quel punto è diventata una sorta di chiodo fisso, fissazione, non so in questo quanto ci siano poi anche degli aspetti per cui era insopprimibile questa cosa, forse avrebbe potuto chiedere aiuto un po' prima, non so se la transizione è stata in qualche maniera assistita o ha deciso e basta. Perché... Allora, la transizione è stata assistita fin quando i medici lo hanno assecondato, poi ci sono stati dei medici italiani che assolutamente gli hanno detto che lui avrebbe dovuto aspettare e fare un'ulteriore terapia. Prima che mi sembrava corretto, non perché nessuno glielo nega, ma non ha voluto, e ci sono altri paesi dove che... Ah, quindi è andato a farlo all'estero. Se paghi, esatto. Diciamo che la procedura di transizione, che richiede comunque un accertamento molto delicato, perché non credo che nessun medico cosciente si prenda la responsabilità di cambiare genere, se non è sicuro che quella è la scelta migliore per la persona. Assolutamente. Gli hanno detto di aspettare, di scegliere delle vie, e lui ha voluto farlo per forza, e a questo punto è un atto contro se stesso. Compulsivo. Sì, infatti. E non dettato, per questo non ne ha ricavato alcuna gioia e alcuna soddisfazione. Vabbè, rischia di sembrare autolesionismo a questo punto, perché doveva aspettare un po', avere una chiara convinzione. Ma amici, amiche, qualcuno che l'assiste, associazioni, non so. No, associazioni lì no, dove adesso assolutamente non ne ha più bisogno, lui ha una cerchia di amicizie. Naturalmente non è solo, è senza la famiglia, perché non ha l'appoggio della famiglia. E non sono sufficienti per il suo equilibrio queste amicizie? Ma io in qualche modo penso di sì, solo che mi sconforta sentirlo, perché noi ci sentiamo per il ragazzo, per le decisioni, diciamo, per quando va. Ma lui com'è la voce adesso? La voce maschile o femminile? C'ha la sua voce camuffata. Ah, parla così, ma è sempre... Tristissimo, veramente tristissimo. E anche quando parla con lei fa la voce da donna? Sì. Anche quando parla con lei? È un dolore sentirlo così, perché mi rendo conto che... Vabbè, lei immagini che ormai è entrato, è in una parte lui, è convinto. Esatto, bravo, ha trovato le parole giuste, proprio quello che mi mancava. È in una parte. È in una parte, e questo mi fa tristezza, ho sempre pregato il Dio che non lo facesse mai svegliare. Io se fosse dare un consiglio, ma con grande rispetto, lasci fuori il Padre Eterno su sta roba che non c'entra nulla. E se posso dare un consiglio, ma non do consigli su queste cose, chi sono per dar consigli? Non sia lei stessa a convincersi che lui sia infelice, lui magari c'ha i suoi amici, il suo giro sta benissimo realizzato. No, per carità. E allora qual è il problema? Così. Il problema è che quando mi chiama in lacrime. Vabbè, ma gli uomini sono dei rompicoglioni anche quando cambiano sesso, e questo è chiaro. Non sempre fare i piagnoni, questo gli è rimasto dell'uomo. Sì, una donna non romperebbe tanto le scatole e sopporterebbe molto di più. Le donne in questo sono molto più virili nel tenersi dentro le proprie cose e non ammorbare gli altri. In questo è rimasto un maschio piagnone, glielo dica la prossima volta. Ok. Vous souvenez-vous aux passagers d'abaisser la sonnerie du téléphone, ne pas créer de gêne dans le wagon. Sei rimasto un maschio piagnone, anche se lo sei tagliato. Vedrai che non le dirà più che è scontento, che è infelice. Secondo me si fa la sua vita, la vita che ha scelto, sta bene, molto meglio di quello che lei pensa. Fa un po' il piagnone perché ha un po' di coscienza non pulita del fatto che l'ha lasciata in mezzo ai guai, perché lui poteva far benissimo la sua scelta, magari poteva sincerarsi che lei fosse messa in sicurezza per questa sua scelta, e a quel punto lui è stato prioritario seguire il suo cammino di soddisfazione, di equilibrio, e lei ha lasciato dietro le spalle. E questo è un comportamento molto maschile, devo dire, quindi rimango dell'idea che alla fine, in questo momento, con pieno rispetto e consapevolezza, questo potrebbe dar fastidio a qualcuno, rimane un uomo piagnone, rompiscatole, egoista, anche se ha cambiato sesso. Sì, ho sempre pensato anch'io. Sì, ma allora si comincia. Però non so se lo pensa anche lui. Vabbè, ma lei che gliene importa, ma sarò che taglia questo filo o no? No, no, il filo è tagliato da mo', io francamente do poco spazio, lui lo sa, cioè, non, mi chiama raramente, e le volte che mi chiama, quando vedo che inizia un piagnisteo, ecco, io subito gli tronco e dico, finiamola qua. Vabbè, questo è come quelli che ti devono dare dei soldi, piangono sempre miseria, è la stessa cosa, e lui si sente in credito, quindi piange insoddisfatto. Secondo me non è insoddisfatto, secondo me nei limiti che sia possibile è una persona che si è realizzata, gli è costato, è stato un cammino per lui sicuramente faticoso e doloroso, vengono i brividi solo a pensarlo, ma se ha scelto di farlo era motivato, non si fanno queste cose così. Quindi lui è nella dimensione che preferisce, essere adulto, è giusto che si prenda tutte le sue scelte fino in fondo. Ma lei si è rifatta delle storie, riesce a... Io sono risposata. Ah, beh, ma no. Mente. E il suo nuovo marito di questa storia che cosa dice? Ma io gliel'ho raccontata subito quando mi... Beh, vorrei vedere. Favola di chi ero. Sarà stata la favola del paese, figuriamoci. I miei problemi immediatamente. E devo dire che non è rimasto... Cioè, anzi, è molto più buono lui col mio ex marito che io. Ma che deve dire? In fondo è un ex. Sì. E in fondo le dico, da uomo con tutti i difetti di un uomo... Quella gelosia che in un uomo è sempre latente per l'ex di una sua donna, in questo caso è attenuata. Assolutamente. Quindi è contento, è come se lei fosse stata con una donna, chi se ne importa. Gli uomini non sono gelosi delle donne. Non lo so, non gliel'ho chiesto questo. Sì, vabbè, io dico io. La vive così, però diciamo che mi è stato molto vicino, mi ha aiutato e continua ad aiutarmi. Insomma, è una persona che mi ha capito e mi ha ridato il sorriso. Vabbè, lei, mi rendo conto che questo è un racconto che lei deve continuamente fare, ed è meglio che lo faccia, perché più ne parla e più ne esce fuori. Però non mi farei più scrupoli, mantenga l'affetto, si può mantenerlo per la persona con cui sta insieme tanti anni e ha fatto un figlio. E infatti per me molli guinzaglio, però lascia andare per la sua strada. Assolutamente, non sono io che cerco lui, è lui che cerca me, ma sempre più raramente, perché io cerco sempre di chiudere la faccenda. E poi ripeto, abbiamo un bambino in comune, quindi mio figlio non gliel'ho mai negato, nostro figlio non gliel'ho mai negato. Ma chiede di vederlo il figlio ogni tanto? Sì, no, io gli consento assolutamente. E il ragazzo ci va volentieri? Ma ultimamente un po' di più, diciamo, prima no. Ma adesso è più consapevole, no? Adesso è più grande, la vive anche diversamente, anche perché si tratta di farsi un viaggetto all'estero, insomma, in mezzo ci sono le amicizie, le cose, quindi insomma diciamo che la vive diversamente, e poi anche perché non lo so se questa è l'impressione che ho io, lui ha un altro papà qua adesso, quando ha bisogno di un aiuto, di una mano, di una confidenza, parla con mio marito, l'attuale marito. Beh, evidentemente l'altro è la zia, cioè è diventata vado a trovare papà, però alla fine in realtà va a farsi un viaggio, si fa le vacanze, ecco, le vacanze da papà. Buon viaggio, ciao. Grazie. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne. You don't have to wear that dress. You don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can. incrociato quell'uomo soltanto per caso, perché mi sono messo a traversare vagone dopo vagone le carrozze semivuote per vedere quante fossero le persone che seguivano il mio stesso destino o la mia stessa volontà di muoversi nel giorno più fermo dell'anno, che è il Natale. Il Natale è un tempo d'attesa. Il Natale è un tempo in cui si ritorna impietriti in una sorta di tempo rituale che riappare sempre uguale da quando si è bambini, da quando si è adulti. E se anche non si compiono gli stessi riti, le stesse operazioni, le stesse azioni, rimangono impresse nella nostra memoria, qualcosa ci manca e li ripercorriamo mentalmente. L'uomo è seduto e guarda fuori del finestrino. Ha una grossa valigia che contiene un campionario, forse bottiglie, forse prodotti alimentari, forse attrezzi paramedici. Non so bene cosa porti, non so bene cosa trasporti. So che anche lui se ne va in giro, in treno, la notte di Natale. E non posso fare a meno di non mandargli le sue impressioni di perché se ne stia andando con quello sguardo perduto fuori del finestrino verso un nuovo destino. Beh, la cosa che frequentando regolarmente la Francia colpisce è quella che chiameremo una questione di stile, forse perché Saint-Beuve diceva lo stile è l'uomo, e cioè soprattutto vivendo in una città sempre più medio orientale o centroafricana come Roma, la prima cosa che ti colpisce e si ripete ogni volta è che per esempio entri in albergo, vai al ristorante, vai a pagare il conto al supermercato e ti si rivolge sempre con una certa cortesia formale che sembra affettata ma invece fa parte della formazione del personale, per cui ti si dice buongiorno signore, come stai, in che cosa posso servirla, arrivederla, grazie, che ormai noi abbiamo abbandonato, per cui apparentemente può sembrare una formalità ma riguarda anche una cura, un'attenzione al cliente, che sia semplicemente il cliente del supermercato, quello del ristorante, dell'albergo, che noi abbiamo un pochino perso. Oltre a questo, nel quotidiano c'è il fatto che, per esempio, una cosa che io sento molto è il fatto che nelle scuole, e questo si vede poi dagli adulti, viene in qualche modo trasmesso il principio dell'appartenenza a un consorzio civile, che loro chiamano spirito repubblicano e che noi chiameremmo educazione civica, che è appunto una lettera morta. Ma un'altra delle cose che personalmente sento di invidiare di più ai francesi è la sopravvivenza tenace di un vero spirito laico. Noi siamo un paese anche nei casi più detestabili di persone che ormai hanno superato ogni assicella possibile della morale comune, una sorta di confessionalismo di facciata. In Francia sono veramente laici. Sì, ma perché loro hanno l'appartenenza alla Repubblica, cioè i principi della rivoluzione che ha tagliato la testa ai re, che ha confiscato i beni della aristocrazia, e una Repubblica che ancora a più di 200 anni dalla rivoluzione si fonda su dei valori, come dici tu giustamente, laici, per cui prima di tutto tu sei citoyen, cioè sei cittadino della Repubblica, poi puoi essere parigino o della Provenza, puoi essere bretone o alsaziano, puoi essere cattolico musulmano, ma questo viene dopo. Prima di tutto e innanzitutto sei cittadino della Repubblica e i valori repubblicani sono quelli che sono condivisi e sono alla base del tuo comportamento quotidiano. Mi sarebbe piaciuto far sentire chi mi ascolta finalmente la voce di una persona francese, o perlomeno con un accento che vagamente ricordi la reale vita e frequentazione della terra che mi sono lasciato alle spalle. Ma ciò non è stato possibile, perché la persona, anzi la donna, che avevo scelto per questo tipo di contributo in realtà è scesa prima di me. È scesa ma mi ha lasciato un biglietto molto gentile, un biglietto vezzoso, un biglietto che potrebbe forse pormi una domanda alla quale io non saprei rispondere, ma mi sforzerò in questa notte totalmente paradossale, immaginaria e costruita su qualcosa che probabilmente nemmeno esiste più. Sono reali e concrete, sono di ferro le rotaie su cui sto correndo, o in realtà sono io che sono chiuso in una stanza, mi immagino di andare in un treno, o semplicemente sto turbando il vostro tempo della statica attesa raccontandovi la storia del bigliettino della donna francese che mi ha lasciato proprio lì appoggiato sul tavolinetto di fronte a me. Caro Gianluca, sono francese e in anticipo mi scuso per gli errori che farò. Ho 44 anni e sono parigina, ma italiana di cuore, anche se non ho nessuna famiglia in Italia. E quasi sempre, quando mi capita di parlare con italiani, si fanno certi discorsi sulle differenze. Perché si sa, siamo vicini, italiani e francesi. Però devo dire che la nostra cultura, educazione, eccetera, sono diverse. E di questo me ne rendo conto sempre di più, venendo spesso in Italia. Non vorrei cadere nei soliti stereotipi, però ascoltando le tue trasmissioni mi rendo conto che le donne spesso dicono di cercare un tipo di uomo che sembra essere diventato raro. Un uomo buono, solido, responsabile e via dicendo. Ma una donna potrebbe anche innamorarsi di un uomo tutt'altro che buono, no? Ci sono alcune cose che non capisco bene. Sarà forse una questione di tradizione in Italia. Ad esempio, come mai si può ancora vivere dai propri genitori a più di 30 anni, che si sia fidanzati o meno? Perché c'è sempre una grande pressione familiare intorno alla scelta del compagno o della compagna. Perché la persona con cui alla fine andrai a vivere deve anche piacere alla tua famiglia? Se una donna cerca l'uomo della sua vita, non è detto che debba piacere anche alla famiglia. È bella la famiglia, importante sì, però sembra essere una pressione. Così come sembra avere molta importanza il cosa ne penserà la gente. In Francia noi lasciamo presto la casa dei nostri e si vivono diverse esperienze di convivenza prima di scegliere con chi creare la famiglia. Insomma, mi sembra che non ci sia una pressione così importante. Il problema è piuttosto incontrare qualcuno che ti piaccia davvero. Questo in Italia mi sembra molto più facile. Al contrario di molte donne che ascolto, io trovo che gli uomini italiani siano molto corretti, raffinati, spiritosi, simpatici e ben educati. È vero che in Italia piace molto corteggiare. Per me è una cosa simpatica, mentre in Francia è diventato raro. Tutti gli uomini sembrano avere paura di noi. E invece in Italia ti fanno complimenti, un sorriso. Io ho deciso da anni di non preoccuparmi di ciò che pensa la gente di me e di fare ciò che è buono per me. Non è egoismo, è prendere la mia vita in mano e rimettere in questione tutto ciò che la nostra educazione e contesto culturale ci ha imposto. Ad esempio credere all'uomo della vita o al fatto di dover convivere con un uomo per considerarsi felice. Il principe azzurro ci ha troppo influenzato nella nostra ricerca di felicità. Perché avere solo un uomo importante nella nostra vita? È come se io dovessi scegliere una mia migliore amica tra tutte quelle che amo. Ci sono uomini importanti nella mia storia personale, persone con le quali ho vissuto cose diverse e bellissime. Quando sono con un uomo che amo mi impegno, sono fedele e vivo con lui al 100%, ma sono consapevole che non sarà per il resto della mia vita. Come faccio a saperlo? Sono troppo onesta per questo. Non è detto che un giorno resterò sempre con lo stesso uomo. Non lo escludo, ma non è un punto d'arrivo. Sono la persona sbagliata per rispondere alla domanda perché l'uomo, la donna e la vita ve l'ha fatto conoscere ai genitori. Non ho mai fatto conoscere ai miei genitori nessuna persona con la quale ho passato orari fuggevoli e passionali momenti, ma anche passato anni molto intensi della mia vita. Non ho mai sentito questo problema, non ho mai sentito questo dovere, anche poi soprattutto avevo una madre che ogni volta che portavo una ragazza a casa, anche soltanto a studiare ai tempi del liceo, cucinava cavolfiore per tenermela lontana da casa. Però è vero, io ho amiche quarantenni, cinquantenni che ancora si vergognano di dire alle madri che magari hanno un uomo col quale convivono, con il quale non sono sposata. Se lo sapesse mia madre si ucciderebbe, mi dice una cinquantenne parlando del proprio fidanzato, non proprio giovincello. Devo portare la mia fidanzata a conoscere mia madre e sono molto preoccupato perché sai, è una donna molto appariscente, chissà come la giudicherebbe, ci rimarrebbe malissimo. Oppure transumanze studiate a tavolino da mesi e mesi per portare la vecchia mamma intrasportabile il giorno delle nozze del figlio, della figliola, perché possa assistere, magari totalmente ormai fuori di testa da secoli, però la mamma ci deve stare, il padre ci deve stare. È contenta, signora francese? L'ho detto tutti i luoghi comuni più triti rispetto agli italiani, nei quali però non mi corrispondo, non mi ci ritrovo, almeno in questi. Quest'estate chiedevo a un amico: perché in Italia non vedo mai donne prendere l'aperitivo da sole come lo faccio io? Perché qui non si fa, mi ha risposto. Allora mi considerate male vedendomi così seduta a un tavolino sola con il mio bicchiere? No. Tu sei straniera, è diverso. Ecco, io mi chiedo, perché? Sono una donna di malaffare se bevo un aperitivo quando e dove voglio, anche da sola? Sarà questa l'interpretazione della donna francese o straniera in Italia? Una donna libera, ma leggera? Pronta a concedersi e non una che se ne sta per i fatti suoi? Caro Gianluca, Mi piacerebbe essere il tuo omologo che va a chiacchierare con gli uomini, perché secondo me sono un po' vittime di molti pregiudizi. Cordialmente, Geraldine. Anche questo è un luogo comune, se proprio vogliamo dirla tutta. In qualunque paese latino del mondo, se una donna si siede da sola a un locale, è facile che abbia comunque l'attenzione, se vuoi galante, se vuoi divertente, ma se vuoi anche molto insistente e fastidiosa di altri uomini. Non so perché questo accade, a me non viene la tentazione, nemmeno viene l'idea, di, ma non perché io sia meglio degli altri, di importunare una donna sola. Certo è che una donna sola comunque negli occhi dell'uomo è un universo indicibile da possibilmente esplorare e conquistare. Noi uomini la pensiamo così. Vediamo una donna sola, quindi una donna che in quel momento ci sembra non circondata dal muro di protezione di un altro uomo che se ne attribuisca comunque, non dico il possesso, è una brutta parola, ma perlomeno il diritto di appartenenza. E quindi, non so, ci sentiamo quasi in dovere, quasi tentati, quasi una tradizione genetica. Non so perché lo facciamo, siamo forse detestabili per questo e me ne faccio carico probabilmente, ma se non lo facessimo ci rimarreste malissimo, questo lo so. Si avvisano i signori viaggiatori che il treno va, riprenderà il suo viaggio sull'Oriente Express domani alle 12 su Radio 24.